Italia in controluce. Italia in controluce, la cronaca, la cultura, il costume, lo spettacolo, il programma in due edizioni coordinato e condotto da Daniele Biacchessi. La prima traccia radiofonica è girata tutta in Lombardia tra le infiltrazioni dell'Andrangheta calabrese nel sistema degli appalti, nella periferia della grande metropoli, i contatti delle cosche con la politica, gli affari. Floriana Aliuni. La presenza dell'Andrangheta in Lombardia ormai è una presenza storica e bisogna stupirci solo di coloro che ipocritamente fanno finta di scoprirla ora a seguito delle inchieste. Francesco Forgione, ex presidente della Commissione parlamentare antimafia, parla chiaro. Si torna a parlare di 'ndrangheta in Lombardia solo dopo le maxi inchieste di quest'estate, ma il fenomeno ha radici profonde e ben conosciute. Facciamo un esempio. Nell'operazione dello scorso luglio denominata Tenacia, un ex assessore provinciale, Antonio Oliverio, viene indagato per corruzione e per la bancarotta di una delle maggiori società lombarde di Movimento Terra, la Perego. Attraverso questa società, il boss Salvatore Strangio manteneva ben 150 famiglie calabresi e puntava ad appropriarsi degli appalti dell'Expo 2015. Com'è possibile una tale commistione tra politica, impresa e criminalità? Sentiamo Giuseppe Gennari, il GIP milanese, che ha firmato gli arresti dell'operazione Tenacia. Queste sono famiglie che sono radicate da generazioni qui ormai in Lombardia. In molte aree lombarde, non solo lombarde, quei lavori li fanno loro, punto e basta. La strategia che abbiamo visto nella vicenda Tenacia è quella di partecipare una grossa società locale, come erano le società del gruppo Perego, e attraverso quella società poi accedere a tutto il sistema degli appalti pubblici. Ma com'è possibile che un'impresa pulita come il gruppo Perego accetti un compromesso con le cosche calabresi? Loro sono in grado di garantire, prima di tutto, la sicurezza dell'impresa. Tu li hai soci e quindi sei tranquillo. Cioè, sei sicuro di non avere problemi da loro, di non avere problemi da altre famiglie. Il secondo vantaggio è poi quello di reperire lavoro, perché avendo loro alle spalle, quando si tratta di ottenere appalti, quando si tratta di conquistare fette di mercato, e le fette di mercato vengono conquistate anche con i loro metodi. In tutto questo la politica locale a volte non sa, a volte finge di non sapere. Giuseppe Gennari e Francesco Forgione. C'è l'omertà della vittima che tace perché veramente ha paura il giorno dopo di essere ammazzato. E c'è l'omertà di chi tace perché, come dire, conviene tacere perché va bene quel sistema. E va detto che appunto attraverso la tecnica di presentarsi con il volto di un imprenditore pulito, l'amministratore pubblico, pur magari accettando l'accordo corruttivo, può anche non rendersi conto. Due stati fa i sindaci di tre comuni dell'Interland milanese, Corsico, Cesano e Trezzano, hanno scritto alla Procura Nazionale Antimafia per denunciare come ormai l'Andrangheta controllasse persino la pubblica amministrazione nei loro comuni. Solo la politica ipocrita non ha visto, non ha voluto ascoltare, e forse è stato più conveniente per determinati settori politici addirittura trasversali poterci convivere tranquillamente. In attesa dei processi legati alle maxi operazioni della scorsa estate, dalle indagini sull'Andrangheta nel nord Italia emergono alcune novità nell'organizzazione criminale calabrese. Francesco Forgione. Da un lato la struttura familiare è inscalfibile, l'Andrina è una famiglia di sangue, perché questo continua a proteggerla da un fenomeno come quello dei collaboratori di giustizia. Dall'altro però l'Andrangheta si è dotata di una struttura di coordinamento, una dimensione locale e globale che si riconferma, produce un salto di qualità. La differenza dalle altre mafie è che ovunque arriva l'Andrangheta non riproduce solo un modello criminale, ma anche un modello antropologico-culturale. Italia in controluce. Diego Maradona compie 50 anni e Napoli ritrova la sua memoria. Enzo Danna. Per tanti è stato l'ultimo vero genio del calcio mondiale, per Napoli è stato ed è molto di più. Fin dal suo arrivo nel 1984 si intuiva che quello tra lui e la città sarebbe stato un legame speciale. Divenne presto l'idolo della folla per il suo estro in campo e il suo carattere mai domo e ribelle fuori. Un argentino napoletano, come lo battezzò l'allora presidente Corrado Ferlaino, che riuscì a strapparlo al Barcellona. Devo dire che per me è uno dei ricordi più belli e più importanti della mia vita. E tutto quello che Maradona ha dato al Napoli che mi riempie i miei ricordi di gioia. Un legame speciale che neppure i problemi con la droga e i guai giudiziari di Maradona hanno intaccato. I napoletani lo hanno sempre amato e lui ha sempre ricambiato. L'amicizia e tutto quello che avevo fatto in Napoli lo sappiamo i napoletani e io. E sappiamo tutti noi che abbiamo fatto tutto contro tutti. E questo non si può cancellare. Esso contente sta tutte. Qui a Napoli il mito di Maradona non è soltanto passione e folklore, come testimonia il movimento a lui dedicato, il Te Diegum, una sorta di comitato che raccoglie intellettuali e personalità della società partenopea. I fondatori ricordano con orgoglio come l'arrivo di Diego a Napoli e le vittorie ottenute dalla squadra grazie a lui rappresentarono un sussulto dell'intera città che attraverso il calcio riusciva a riscattare se stessa dimenticando problemi di ben altra natura. Per questo vincere uno scudetto qui a Napoli non è come vincerlo da un'altra parte. E Diego questo lo ha toccato con mano per la prima volta il 10 maggio dell'87. Io mi sento qui come mia casa, ti giuro, guarda. Io ho sentito oggi che la gente era con me, guarda. Per quello ho vissuto la gioia più grande della mia vita. Oggi il genio ha mezzo secolo di vita e Napoli intende celebrarlo come merita, ma lui non c'è. L'ipotesi suggestiva di un ritorno per festeggiare qui i suoi 50 anni è tramontata a causa dei guai col fisco di Diego, che deve all'erario quasi 40 milioni di euro. E così l'euforia per un possibile arrivo di Maradona lascia spazio ad un pizzico di delusione. Per un giorno intero non si parlerà che di lui. Fin dal mattino, non a caso, in un luogo simbolo, il bar Nilo di via San Biagio, che custodisce in una teca esposta al pubblico un capello di Maradona. Tra gli altri appuntamenti previsti, alla Mediateca Santa Sofia, la proiezione di filmati e documentari e la lettura dello scrittore Maurizio De Giovanni, che ha dedicato un intero racconto al gol più bello del mondo, il secondo messo a segno da Maradona contro l'Inghilterra ai mondiali messicani dell'86. Cosa resta del Insomma, oggi come allora, il mito rivivrà nei vicoli, nelle strade e nelle piazze di una città che non si stancherà mai di amarlo. La seconda e ultima edizione di Italia in Controluce per quest'oggi 29 ottobre, l'archivio di tutte le puntate a radio24.it, per comunicare con noi il gruppo su Facebook Radio 24 Italia in Controluce, quello su Twitter in Controluce, la mail controluce@radio24.it, Filippo Aureggi all'editing e al montaggio. Torniamo lunedì 1 novembre 6:30 su Radio 24.